Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, ce n'è più d'uno, nel senso che la visita del Premier Enrico Letta negli Emirati Arabi ha portato nel fine settimana, ma anche oggi, ad alcune novità. La più grossa riguarda sicuramente l'Italia, mi riferisco agli accordi di carattere internazionale. Di Alitalia parleremo, perché a questo punto l'accelerazione è più che evidente nell'interessamento, per ora diciamo solo così, di Etihad, la compagnia degli Emirati Arabi, o meglio di Abu Dhabi, che è in netta concorrenza anche con l'altra grande compagnia dell'area, che è Emirates, e quindi ha un interesse ad entrare nel mercato europeo. Sappiamo infatti che per legislazione europea una compagnia non dell'area europea non può effettuare i voli interni, ma dell'aspetto anche più operativo parleremo più avanti. Quello che è chiaro è che adesso entro la settimana dovrebbe arrivare l'accordo con i sindacati e poi i 30 giorni annunciati ieri da Enrico Letta. E in tutto questo però c'è anche il fronte europeo, perché Lufthansa ha già fatto sapere che potrebbe chiedere un intervento a Bruxelles, perché ravvisa una forma di aiuti, non tanto aiuti di Stato quanto aiuti complessivamente dati alla nostra ex compagnia di bandiera. Dice aiuti di Stato perché in sostanza l'accordo è arrivato con il governo italiano. In realtà su questo è intervenuto il commissario europeo, che è anche vicepresidente della Commissione europea, Tajani, che ha detto di non vedere una violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato. Tra l'altro il ministro Lupi ha detto: guardate che quella con Etihad è una trattativa privata, lo ha detto a Lufthansa. E ha aggiunto anche Lupi: l'Unione Europea non sia un alibi per bloccare la trattativa. Modestamente anche a noi sembra che la trattativa non si configuri come aiuto di Stato, nel senso che non ci sono soldi che i contribuenti italiani metterebbero nella trattativa con Etihad. Però dovremmo avere il nostro ospite anche il vicepresidente Tajani alle 18.15 per parlare di quello, ma per parlare anche invece della procedura di infrazione che, come temevamo, ne abbiamo già accennato venerdì scorso, l'Unione Europea ha intenzione di aprire nei confronti dell'Italia per il ritardo con cui la pubblica amministrazione italiana paga le sue imprese. E sappiamo che c'è una direttiva europea recepita dallo Stato italiano che dice massimo 30 giorni, abbiamo raccontato come la media in Italia sia di 170 giorni, quindi sono 140 giorni sopra la legge, ma anche sono circa 110 giorni in più della media europea, che è di 60 giorni. Attenzione, perché la procedura di infrazione, se poi venisse combinata, potrebbe essere molto molto salata, addirittura equivalere sostanzialmente all'ammontare dell'IMU per un anno, tra i 3 e i 4 miliardi. Sarebbe veramente una beffa con tutto quello che è stato fatto per levare l'IMU un anno, ribeccarsi attraverso una multa dell'Unione Europea lo stesso montare per le casse dello Stato. E di questo appunto parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece il confronto, botta e risposta, c'è chi ha scritto scontro, tra il presidente della Confindustria Giorgio Squinzi e il presidente del Consiglio Enrico Letta. In realtà qui, più che di scontro o confronto di carattere ideologico o di approccio, qui mi sembra che molto banalmente in gioco siano le cifre e i numeri, nel senso che fermo restando un giudizio diverso sullo scenario economico, e anche oggi devo dire che le notizie che sono arrivate a livello della propensione d'acquisto delle famiglie, potere d'acquisto delle famiglie, i dati sono ancora relativi però al 2002, ma insomma sono abbastanza inequivocabili, cioè l'impoverimento del paese è continuato nel 2002, voglio dire 2012, è continuato nel 2012 e anche nel 2013, c'è però una differenza nella valutazione dei numeri. Allora, il governo stima per quest'anno una crescita dell'1,1%, l'anno prossimo 1,7%. Fondo Monetario, OCSE e Commissione Europea tutte dicono, e anche il Centro Studi Confindustria, dicono 0,6%, forse 0,7%. Ora, mi rendo conto che siano pochi decimali e la questione può far sorridere, però siamo a una valutazione quasi, quasi doppia, cioè tra lo 0,6 e l'1,1 siamo quasi al doppio, tra lo 0,6 e l'1%, beh, c'è una differenza del 40% in più, allora in un caso del 40% in meno, se vogliamo dirla, nell'altro caso, non è poca cosa, fermo restando che è una crescita debole. Non è poco dire che chiuderai con lo 0,6 o dire che chiuderai con l'1,1, anche perché nel calcolo del rapporto deficit-PIL, il PIL è il denominatore e avere un PIL che è cresciuto dello 0,6 o dell'1,1 significa avere un risultato nel rapporto deficit-PIL molto diverso, cioè avere un deficit che è sotto il 3% o è leggermente sopra, visto che l'Europa chiede in maniera molto ragionieristica questa soglia del 3%. E quindi lo scontro non è solo, diciamo, sulla valutazione della situazione, ma proprio sulle previsioni. Mi sembra personalmente strano che il governo continui a mantenere un obiettivo dell'1,1% quando, ripeto, non tanto il Centro Studi Confindustria, se no diciamo che, ma Fondo Monetario, OCSE e Commissione Europea sono tutte allineate sullo 0,6% e sull'anno prossimo le cifre oscillano tra l'1,1 e l'1,4%, il governo dice l'1,7%. Qui la differenza è un po' minore, ma almeno mezzo punto percentuale in più è la stima del governo. Anche qui mezzo punto percentuale di PIL con questi numeri non è poca cosa. È anche chiaro che sia 1,1 o 0,7% per molte famiglie la differenza non si vedrà, anche perché lo stesso governo sostiene che la disoccupazione come effetto, diciamo, di una cinghia di trasmissione lunga continuerà a crescere anche nel 2014. E poi, voglio dire, siccome una famiglia italiana normalmente non si ciba di PIL e non si ciba di statistiche, se poi tu vedi che il tuo familiare in cassa integrazione resta in cassa integrazione o va in cassa integrazione o addirittura perde il lavoro, io ti posso anche raccontare che il PIL quest'anno è previsto all'1,3 invece che allo 0,6, ma la tua situazione personale è chiaramente in peggioramento. Ultimo elemento, la borsa. Oggi sono tutte negative le borse, con un calo più accentuato su Milano, meno 2,5%. Infatti Milano, ancora il timore dei paesi emergenti e della deflazione in Europa a penalizzare le borse. Meno 1,5 Parigi, meno 1,40 Francoforte, meno 0,30 Londra, meno 1,30 l'America. Chi perde di più, come immaginabile, i titoli bancari, ma anche World Duty Free, che perde il 6,90% proprio per le tensioni sui mercati emergenti. Poi le banche, e anche qui sulle banche ci sono varie indiscrezioni, soprattutto il Financial Times che ipotizza che Banca Intesa possa avere, Intesa San Paolo, possa costituire una bad bank, una banca dove mettere le perdite, in cui depositare parte dei crediti deteriorati, quindi non performing loans, quei crediti che difficilmente, se non quasi impossibilmente, riuscirai a recuperare prima di sottoporsi agli stress test del European Banking Authority. Dicevo, male le banche, quindi il Banco Popolare perde il 6,70, il Popolare Emilia Romagna perde il 6,60, UbiBanca meno 4,5, Pop Milano meno 4,20, Unicredit meno 4%, e ancora per quello che riguarda i titoli bancari, Mediobanca meno 3,40%, Intesa San Paolo meno 2,80%. Di positivo c'è pochissimo, solo Snam con lo 0,15%. Segnalo una flessione superiore alla media anche per Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 3,60%, Ferragamo meno 3,5%, anche qui sul lusso pesano un po' di correzioni, ma le preoccupazioni sugli emergenti. Tod's meno 3,21, Fiat meno 3,20, Finmeccanica meno 3%. L'ultima cifra, come sempre, l'ultimo numero è quello per i vostri sms, 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. altre notizie, dicevamo, fermo restando che le principali sono quelle che saranno oggetto di approfondimento nel programma. Per quello che riguarda l'economia internazionale, restiamo in tema di banche. La banca europea è sottoposta agli stress test della Banca Centrale Europea, o meglio dell'EBA. Dovranno, secondo la Banca Centrale Europea, nei termini più brevi, se verrà evidenziata una mancanza di capitale, aumentare, fare un aumento di capitale, anche se la debolezza del capitale dovesse essere evidenziata non nello scenario peggiore. Lo stress test si fa come, insomma, come le macchine, no? Scenario peggiore, scenario medio, scenario migliore. La BCE dice che dovranno aumentare il capitale anche se dovesse emergere una debolezza nello scenario di base. Quando arriveranno questi stress test? Beh, a fine aprile. A metà febbraio si chiude l'esame, la selezione dei portafogli per l'esame della qualità degli attivi bancari da parte della Banca Centrale Europea. E negli stress test sulle banche europee, le esposizioni ai titoli sovrani che le banche hanno classificato come held to maturity, quindi vicine a scadenza, saranno trattate come le altre esposizioni creditizie in quel portafoglio, vale dire che verrà calcolato l'impatto degli scenari sui parametri di perdite e default con la necessità di ulteriori coperture. Perché questo? Perché i titoli di Stato in portafoglio e nella pancia delle banche, soprattutto le banche italiane, spagnole, ma non solo, sono classificati held for trading, e quindi pronti per essere venduti, solo se immediatamente vendibili. Di solito sono circa il 10% del portafoglio titoli. Invece held to maturity è se si pensa di tenerli fino a scadenza, non so, un BTP a 5 anni, se ritieni di portarlo a scadenza, sono circa il 5-6% del portafoglio, oppure available for sale, che è la stragrande maggioranza, praticamente l'80% dei titoli che le banche hanno in pancia, sono quelli che sono a disposizione ma non utilizzati per il trading. La Grecia, un sondaggio in Grecia oggi fa emergere come il 65% degli anziani in Grecia soffra la fame e il 62% non abbia i mezzi per nutrirsi in maniera adeguata. Il 32% ha dovuto ridurre la quantità di cibo. Il sondaggio lo ha realizzato all'interno di un programma di aiuti alimentari denominato Ogni giorno al loro fianco, la ONG greca Linea di Vita. Io mi chiedo se fosse per forza necessario arrivare a questo modo e a questo tipo di indigenza per risolvere i problemi della Grecia, se le misure della Troica, in questo senso io per esempio sono molto critico con la Troica, non con l'euro ma con la Troica sì, e con questa gestione dell'area euro, se fosse necessario arrivare a un tale livello per tranquillizzare gli elettori tedeschi. Che obiettivamente in questo momento non hanno problemi, visto che la Merkel vuole addirittura abbassare l'età pensionabile con un costo di 140 miliardi complessivi per lo Stato tedesco. Quindi voglio dire, allora, no, non è che qualcuno fa tre pasti, qualcuno ne fa uno solo, poi chi ha sbagliato deve pagare le correzioni, l'abbiamo detto, però c'è modo e modo di punire, si può punire o si può umiliare. A mio avviso nel caso greco si è arrivati all'umiliazione. Dalla Grecia all'Italia, vale 60 miliardi la corruzione nel nostro paese, è una vecchia stima questa che ha diffuso oggi la Commissione Europea, lo ha fatto il commissario Cecilia Malmström, però non è comparabile la cifra di 60 miliardi di euro della Corte dei Conti sulla corruzione in Italia con quella complessiva di 120 miliardi come stima per i 28 paesi europei. Perché lo dico? Perché altrimenti sembrava che noi da soli facessimo metà della corruzione di tutti i paesi europei. Sono due calcoli diversi che non sono confrontabili. Bruxelles però chiede anche all'Italia di bloccare l'adozione di leggi ad personam, dal lodo Alfano alla ex legge Cirielli, dalla depenalizzazione del falso in bilancio al legittimo impedimento. Adesso qualcuno dirà che ce l'ho con Berlusconi, è Bruxelles che lo dice, sono tutte leggi volute dal governo Berlusconi, non è colpa mia. Lo dice il rapporto appunto dell'Unione Europea sulla corruzione, rileva che i tentativi di darsi nome per garantire i processi efficaci, darsi norme per garantire processi efficaci, sono stati in Italia più volte ostacolati da leggi ad personam. E appunto è molto perplessa l'Unione Europea sulla disciplina sul falso in bilancio, la prescrizione, l'autoriciclaggio. Tra l'altro dice che la nostra normativa contro la corruzione non modifica la disciplina della prescrizione, la legge sul falso in bilancio e l'autoriciclaggio, e non introduce reati per il voto di scambio. Ma tanto non c'è il voto di scambio in Italia, no? Con tutti i processi in corso sulla cosa. Di Tajani abbiamo detto, che parte oggi la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, e anche del fatto che il commissario non veda invece violazione sugli aiuti di Stato per quello che riguarda la vicenda all'Italia. Etihad, settimana cruciale questa per l'Italia, ma ne parleremo fra poco. Una settimana cruciale anche per Electrolux, nel giorno in cui i sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e WILM hanno rigettato completamente il piano di taglia avanzato da Electrolux per mantenere la produzione in Italia. Si è infatti svolto oggi il coordinamento sindacale unitario su Electrolux a Mestre, fumata nera, appunto, come ha spiegato al microfono della nostra Valentina Furlanetto la segretaria nazionale della FIOM, Michela Spera. Il coordinamento di oggi ha fatto un bilancio delle iniziative di scioperi articolati e di prestigio delle portinerie messe in campo nei vari stabilimenti e ha definito il proseguimento di questo livello di iniziativa su tutti gli stabilimenti del gruppo. Voi avevate chiesto che anche il governo in qualche maniera entrasse a questo Noi tavolo di discussione. Noi abbiamo chiesto a gran voce che sia lo stesso presidente del Consiglio a seguire la vertenza in Electrolux, perché il tema che pone la multinazionale della competitività e della sostenibilità delle produzioni italiane è un tema che prevede, che necessita di interventi diretti da parte del massimo organo di governo politico nostro nel rapporto con la multinazionale, perché solo quel livello può costringere la multinazionale a rivedere i propri piani. E dall'altra parte è necessario che la Presidenza del Consiglio coordini e definisca gli interventi dei vari ministeri per individuare quali possono essere gli interventi di natura di politica industriale, di riduzione del costo del lavoro, noi ne indichiamo uno, la decontribuzione dei contratti di solidarietà, per poter mantenere competitive e sostenibili le produzioni in Italia. E che tipo di risposta avete avuto dal Premier Letta? Ad oggi noi non abbiamo avuto risposte dirette dal Premier Letta che non siano quelle dichiarazioni che ha fatto pubblicamente tramite stampa. Quindi non è stato convocato un tavolo? No, da parte di Letta no, ma ovviamente noi siamo consapevoli che il Presidente del Consiglio ha mandato il proprio consigliere economico, dottor Sanna, al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico che si è tenuto il 30, e crediamo che il dottor Letta debba direttamente interloquire con la multinazionale da un lato e dall'altro incontrare il sindacato e parlare con il sindacato rispetto alle misure che intende fare. Noi abbiamo bisogno di risposte da lui. E vedremo adesso cosa succederà, visto che il no dei sindacati al piano di Electrolux è un no secco. Io temevo, nonostante l'ottimismo del ministro Zanonato, che la vicenda sarebbe stata più complessa del previsto. Non posso fare la puntata sulla Grecia, abbiamo fatto decine di puntate cercando di spiegare perché invece che punire la Grecia la si andava a umiliare, e obiettivamente vedere dei dati in cui il 65% degli anziani greci ha difficoltà ad alimentarsi, secondo me non è questa l'Europa che vogliamo. Si può dire, per salvare un paese che ha un PIL che non arriva neanche a quello della Lombardia, che ha truccato i conti, che andava punito, che andava commissariato, tutto quello che volete, ma qualunque genitore sa la differenza tra punire un figlio che è un cattivo studente o umiliare tuo figlio. Se lo umili, no, tendi poi a creare un po' di disaffezione, mettiamola così. Ecco, i tedeschi su questo, passatemi in termini, non è che abbiano tutto sto tatto e questa capacità di distinguere quando umili o quando punisci, e le scelte dell'Europa sono state a mio avviso sbagliatissime. Poi vedremo come andranno queste elezioni europee, vedremo se è aumentata in questa gestione dell'Europa l'affetto dei cittadini europei verso l'area euro e l'euro stesso, vedremo se è diminuita. Temo che alcuni si stiano interrogando insistentemente che senso ha questa Europa che avvantaggia solo alcuni e umilia altri. A mio avviso nel 2014 vedere che un anziano greco che avrà pure troccato i conti il suo governo, ho capito, voglio dire, cosa ha fatto la Germania in aiutare le sue casse di risparmio? Non sono due cose diverse, però anche la Germania si è permessa di tagliare alcuni aiuti senza che nessuno rompesse le scatole, ha avuto nel 2002-2003 la possibilità di non incorrere nelle infrazioni quando sforò il tetto del deficit PIL, ok? Lì fumo tutti d'accordo nel essere molto molto comprensivi con la Germania e anche con la Francia, per cui lezioni da lì no, grazie. Bravissimi a fare le riforme interne, bravissimi, ma lezioni su come si applica il rigore, no, da paesi che hanno ottenuto deroghe quando sforarono loro, da paesi che hanno aiutato le loro banche e come se le hanno aiutate, che erano in difficoltà, lezioni non le voglio sentire. Beh, poi quando scopro che perfino l'ACI tedesca trucca i dati sulla Golf per far vedere che la macchina più venduta è da 3.400 e poi da 34.000, su, dai. Noi continuiamo a fare i compiti a casa, si fa per dire, perché qua di nuovo ce n'è. Piemonte, nonostante lo scandalo delle spese pazze con 2/3 del Consiglio Generale indagato, la sentenza del TAR che annulla l'elezione al governatore di Roberto Cota, la maggioranza della Regione Piemonte ha approvato una norma che consente ai consiglieri di riscattare da subito, ma perché loro sì e noi no, i contributi previdenziali già versati, rinunciando ai vitalizi futuri. L'approvazione della norma è venuta prima della discussione in aula sul bilancio. La nuova legge, pensate un po', devo dire che le opposizioni hanno votato contro, ha valore retroattivo e rende possibile il riscatto anche dei contributi versati nelle passate legislature. Perché l'hanno approvata? E il numero uno è il capogruppo del nuovo centrodestra, Daniele Cantore. La norma è stata approvata perché in questo periodo di incertezza sul futuro ci sono colleghi che probabilmente preferiscono vedere garantiti con assoluta certezza i contributi che hanno versato. No, mi scusi, cioè voi avete incertezza sul futuro? Cioè qua abbiamo la disoccupazione giovanile a record, la disoccupazione normale a record, le famiglie che si impoveriscono, poi citerò anche il dato di oggi sull'impoverimento del potere d'acquisto, e voi avete incertezza sul futuro? E gli altri italiani no? Hanno un futuro, no, radioso. Cioè alcuni hanno anche fatto notare nei banchi del Consiglio regionale del Piemonte che la norma permette ai consiglieri indagati per le spese pazze di far cassa prima ancora di essere condannati dalla magistratura, ma almeno aspettiamo la sentenza. Qua sono indagati più di metà del Consiglio per spese pazze, ma non sono le mutande di Cota, abbiamo raccontato di tutto, scontrini emessi in un posto mentre il consigliere si trovava a 2000 km di distanza, di tutto è venuto fuori lì, e gli diamo anche questa possibilità. Sono 44 rinviati a giudizio per lo scandalo delle spese fuori controllo alla Regione Piemonte, compreso il governatore Cota, tutti appartengono alla maggioranza. L'operazione di riscatto del vitalizio costerà alla Regione dai 7 ai 15 milioni di euro nell'immediato, anche se nel tempo potrebbe portare a un risparmio in 30 anni di 60 milioni di euro, ma intanto li tiriamo fuori subito. Mastrapasqua, oh, quando poi parte la valanga, non solo si è dovuto dimettere, non solo è sotto accusa per lo stipendio da 1.200.000 euro l'anno di dichiarazioni che deriva da tutti gli incarichi che ha, 9 o i 20 precedenti, 24 precedenti, no, si scopre che c'è un altro capitolo, c'è una laurea in economia e commercio alla Sapienza ottenuta acquistando gli esami. Mastrapasqua, ma non ci credo. Nel 1997 Mastrapasqua è stato condannato a 10 mesi di reclusione dalla Cassazione per aver comprato con la complicità di tre bidelli di un'impiegata dell'Ateneo esami universitari mai sostenuti. Nel periodo in cui il processo è giunto a sentenza, Mastra Pasqua si è comunque laureato, che con i tempi della nostra magistratura non è un atto di merito, ovviamente con un piano di studi diverso. Complimenti. Questo devo star zitto oggi, perché è solo lunedì. Andiamo al fondo del merito. Ci sono 20 milioni di euro per il fondo del merito, non il fondo del merito come il basso fondo del merito, istituto del Ministero della Pubblica Istruzione nel 2010, per spianare la strada alla meritocrazia. Non li ha mai erogati perché sono impantanati nei meandri stessi della burocrazia. Hanno usato le risorse del fondo per il merito per il decreto del fare, per pagare gli scatti di stipendio ai professori, le borse di mobilità europea come un progetto Erasmus, tutto bene, ma insomma è la Corte dei Conti che lo fa sapere e ravvisa il completo flop dell'operazione e l'ottusità della macchina burocratica italiana. Le carte dell'iter attuativo sono rimbalzate da un ministero all'altro senza che nessuno le abbia firmate, sancendo di fatto il fallimento del progetto. Tanto si chiamava fondo del merito, no? Era al fondo del merito, potremmo dire, giocando con le parole. C'è però una persona che è stata pagata, almeno il notaio della fondazione ha ricevuto 1.400 euro. Domani parleremo della regione Sicilia, però, usando le metafore, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Beh, insomma, la vicenda del fondo del merito, che non riesce a essere utilizzato per la burocrazia che lo blocca, lo dice la Corte dei Conti, con queste carte che rimbalzano da un ministero all'altro senza che nessuno le abbia firmate, è veramente, questo era il fondo per il merito e siamo arrivati al fondo del merito. A mio avviso è una di queste immagini che raccontano molto di più di tante analisi. Ti chiedo ancora un po' di pazienza, perché qui discutiamo invece delle diverse, non solo previsioni, ma fotografie del paese emerse tra il presidente Confronto Squinzi e quello del Consiglio Enrico Letta. Sono diverse visioni, ma ripeto, i numeri, le differenze dei numeri sono importantissime. In un caso Fondo Monetario, OCSE e Commissione Europea dicono 0,6% di crescita, il governo continua a dire 1,1. Siamo a quasi il doppio. Dopo il meteo. Dalle proiezioni del nostro centro studi di Confindustria, che peraltro negli ultimi anni sfortunatamente ha azzeccato tutte le previsioni contro l'opinione della politica, meno 2,4 di PIL nel 2012, meno 1,8 l'anno scorso nel 2013, un modestissimo più 0,6-0,7 previsto per quest'anno. Sono numeri che non ci permettono di guardare con ottimismo sul futuro. Io vorrei ricordare che noi in questo momento è chiaro che c'è un'inversione di tendenza trascinata, non andiamo dopo 10 trimestri consecutivi negativi del nostro PIL, stiamo strisciando sul fondo e probabilmente rivedremo un segno positivo, frazioni di decimali, frazioni di punti percentuali. Questo non basta a creare occupazione, non basta a far ripartire il paese. Noi abbiamo stimato come Confindustria che serve per tornare a ricreare occupazione servirebbe una crescita di almeno il 2% all'anno. È bene che ognuno faccia bene il suo lavoro e quindi è bene che Confindustria aiuti il PIL del paese e sono convinto che Confindustria farà questo. Io sono convinto che invece i dati del governo siano quelli giusti. Allora, c'è una spiegazione tecnica, Guido Gentili. Il ministro Saccomanni dice non solo il Centro Studi Confindustria, ma anche la OCSE, il Fondo Monetario, la Commissione Europea, che sono tutti allineati allo 0,6, non tengono conto degli effetti positivi che avranno i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese che aspettano questi soldi. Però io vorrei capire, a me fa un po' specie, la differenza è netta, è quasi il doppio, ma qua ci stiamo un po' incartando sui decimali. Forse nel messaggio di Squinzi c'era anche l'idea, attenzione a dire al paese che le cose stanno migliorando, perché poi uno questo nei dati non lo vede. E ripeto, oggi Abbiamo un nuovo dato per quello che riguarda l'Istat del 2012, c'è stato un calo complessivo soprattutto nel centro-nord del reddito delle famiglie. Guido? Sì, la situazione è esattamente questa. Tra l'altro, per quanto riguarda i crediti vantati dalle imprese, diciamo, sta proseguendo il pagamento, ma a ritmi talmente lenti che siamo appena stati messi sotto procedura di infrazione dalla Commissione europea. Questo è il primo dato. Il secondo è che leggevo alcuni report ieri, uno era della Goldman Sachs, che diceva che l'area europea è destinata nel 2014 forse ad arretrare dello 0,4%. Quindi diciamo, le previsioni, che già non erano, diciamo, trionfalistiche, si stanno in questo momento, in questa fase, si stanno di nuovo restringendo ancora, e c'è oggettivamente uno spettro deflazione alle viste, anche se la Banca Centrale Europea ancora non ne parla apertamente. Draghi l'ha solo, diciamo, profilato dicendo che farà, ovviamente la Banca Centrale farà tutto quello che dovrà fare per contrastare questo fenomeno, però insomma la situazione è di un arretramento complessivo. Anche questi segnali che ci sono sul mercato di borsa non sono propriamente incoraggianti. No, ma io dico, a me quello che, allora, fermo restando che tra lo 0,6 e l'1,1 c'è una bella differenza, perché saranno sempre decimali, ma siamo quasi il doppio. Sì, quello che, ecco, io non capisco una cosa, perché il governo non è che deve deprimerci, ci pensiamo già da soli. Però nemmeno illudersi, cioè veniamo da governi degli annunci, delle finte promesse, quanto è costato anche elettoralmente a Berlusconi negare la crisi nei primi 2 anni. Ristoranti pieni, sempre al telefonino, lo stesso Tremonti disse tornare indietro 2 anni, non si stava male nel 2005, sì, poi si sono rimangiati tutto, sia Berlusconi che Tremonti, perché la crisi era vera e purtroppo la cercavamo di raccontare. Che senso ha politicamente? Non ha nessun senso. Cioè, difendere la linea dell'1, come se fosse la linea del Piave dell'1,1, quando l'italiano gli abbiamo spiegato che aumenterà la disoccupazione anche quest'anno come effetto trascinamento. Quando sei sotto del 20% di produzione, produzione industriale rispetto al 2007, se anche recuperi il 3%, non è che la gente esce in strada con lo champagne o col prosecco, no? Ma certo. Allora, ma perché lo fa, secondo te, Letta, questo? Lo fa, diciamo, come lo fanno purtroppo tanti politici che, diciamo, usano la guerriglia dello 0,1% per dire siamo stati bravi, stiamo uscendo, vediamo finalmente le luci della ripresa. E purtroppo questo non è così, e non è con la guerriglia dello 0,1% in più o in meno che risolviamo i problemi di questo paese. Quindi Letta sono mesi che promette la svolta. Io ricordo anche delle sue affermazioni dell'agosto scorso, del 2016, dicendo adesso a ottobre ci sarà la svolta con la legge di stabilità. La svolta non c'è stata, siamo a febbraio e non è nemmeno pronto ancora il patto di programma che era stato annunciato per gennaio, e quindi la situazione è una situazione di stagnazione, che poi, diciamo, rimbalzi la produzione industriale, che poi rimbalzi anche il PIL dello 0,1-0,2%, ha perfettamente ragione il Presidente di Confindustria, dice che non cambia la sostanza delle cose, non è con questa prospettiva, diciamo, che usciamo dalla crisi. No, tra l'altro io personalmente, questo è un programma di economia, ma ritengo anche politicamente molto pericoloso dire, c'è chi dice non è vero che Berlusconi l'ha pagata, no, andate a vedere i dati, l'ha pagata, però come consenso elettorale, molto pericoloso in questo momento dire beh ragazzi questo è l'anno in cui iniziamo a vedere la ripresa, perché se poi questa cosa non la vedi, o meglio la vedono solo alcune imprese, quelle che già sono sull'export ma i consumi interni sono ancora fermi, non la vedono gli occupati perché la disoccupazione aumenta, fai incavolare ancora di più. Cioè è meglio dire ragazzi quest'anno è un anno di stabilizzazione con un po' di crescita, non sarà brutto come il 2013, non sarà brutto come il 2012, riusciremo un po' a respirare, certo che prima di correre e respirare a pieni polmoni ci vorrà ancora del tempo. Cioè non capisco, è un rischio di boomerang politico molto forte, Guido. Sì, è un rischio di boomerang politico, ma risponde a una logica di galleggiamento che purtroppo, diciamo, la politica ci ha abituato da tempo, diciamo, da tanti anni a questo tipo di scelta. Come dicevi tu poi, noi abbiamo qualche segnale positivo sul fronte delle esportazioni, dove addirittura forse i dati sono ancora migliori di quelli che sono stati dati negli ultimi giorni. Ma la domanda interna è praticamente, non solo è al palo, diciamo, ma diciamo, ci rappresenta una situazione drammatica. Noi daremo dei dati domani su questo, e ovviamente diciamo, è la fotografia di un paese che è fermo. Quindi lo 0,1, 0,2 non serve a nulla se non ai politici per, diciamo, fare una battaglia, diciamo, io dico old style, ma ovviamente è un eufemismo, su un terreno dove la politica purtroppo invece dovrebbe invece fare il contrario e dire innanzitutto le cose come stanno. Ecco. E quindi non serve assolutamente a nulla dire che siamo vicini alla ripresa, perché la ripresa, diciamo propriamente detta, degna di questo nome, in questo momento ancora non c'è. Cioè io paragono un allenatore che fa 4 partite di fila perdendo 3-0, no? Sì. Ora, se poi fai 1-1 è chiaro che è meglio, no? Però non puoi spacciarlo come vittoria o dire la squadra è cambiata, visto che il termine calcistico ci capiamo quasi tutto. Dici stiamo migliorando, non abbiamo più preso 3 peri o 2 peri, abbiamo fatto 1-1 e quindi meglio 1-1 che 2-0, che perde 2-0, ma da lì a dire che la squadra è cambiata e mo stiamo crescendo e vediamo la vittoria alle porte, attenzione, siccome prevengo l'obiezione che alcuni già fanno, ma ecco perché ha parlato il presidente di Confindustria, io vi dico che anche se l'avesse detto il presidente di Confartigianato, di Confesercenti, di Confcommercio, di Confagricoltura, cioè tutte le associazioni datoriali, avrei sostenuto la stessa cosa. Invece che attaccare chi vede il mercato del lavoro, cerchiamo di trovare delle dichiarazioni e delle previsioni un po' più realistiche. Allora, è inutile dire agli industriali, agli artigiani, agli agricoltori fate il vostro lavoro, se poi tu distruggi la domanda interna con le tasse, l'industriale o l'artigiano o il commerciante può fare il suo lavoro. Nel caso dell'industriale lo fa esportando, e i dati sull'export sono da record, quindi vuol dire che fuori i nostri prodotti un mercato ce l'hanno. Ma dentro non puoi obbligare la gente, dentro vuol dire nel mercato italiano, a comprare se sono massacrate dalla pressione fiscale e se aumenta la disoccupazione. Perché io posso fare anche il miglior prodotto al mondo, ma se quell'altro non ha soldi non me lo compra. E non ho citato il Fiscal Compact, su cui vorrei sentire qualcosa anche da Enrico Letta, cioè i 45 miliardi di euro che dal 2015 dovremmo tagliare nel nostro debito secondo le desiderata teutoniche. Trovo tutto questo molto pericoloso, ripeto Guido. Sì, è molto pericoloso e poi anche molto contraddittorio, nel senso che non più tardi di qualche ora fa il capo supremo dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Besara, ha detto che gli investimenti stranieri sono scoraggiati in Italia dall'alta tassazione e dall'incertezza normativa che, diciamo, vige in questo paese. Quindi, voglio dire, questo lo dice tra l'altro mentre il Presidente del Consiglio è in un viaggio diciamo, per promuovere all'estero, per promuovere gli investimenti esteri in Italia. Quindi, diciamo, questa è diciamo, lo stato reale della situazione in Italia. Quindi questa è una condizione molto molto difficile e, diciamo, colpisce che nonostante le esperienze passate che abbiamo appena ricordato, vale per il discorso del governo Berlusconi, ma vale in parte anche per il discorso di Monti, che vedeva già nel febbraio del 2012 le luci della ripresa, che poi invece abbiamo chiuso poi l'anno ai livelli che conosciamo, a livelli di prodotto che conosciamo. Beh, anche adesso mi sembra, diciamo, azzuffarsi sullo 0,1 in più o in meno mi sembra veramente una cosa tragicomica. Sono d'accordo con te. E una chiosa, mi dicono che dobbiamo assolutamente chiudere, ho sbagliato io. Una chiosa però nel ringraziare Guido Gentili, lo voglio fare anche su Mastra Pasqua. Resta con noi, Guido. Perché molti dicono, ma com'è possibile, visto che anche per fare un normalissimo lavoro ti chiedono i certificati? Non lo so, però ripeto, Mastra Pasqua fu condannato nel 97 alla pena di 10 mesi di reclusione dalla Cassazione per aver comprato, con la complicità di 3 bidelli e di un impiegato dell'Ateneo, esami universitari mai sostenuti. Nel 2008 fu nominato presidente dell'INPS, con voto unanime del Parlamento. Il governo era Berlusconi, dicono che fosse indicato da Gianni Letta, ma questo diciamo è alle cronache dei giornali. Voto unanime del Parlamento, per cui insomma ognuno si assume le sue responsabilità. Anche a me pare incredibile che uno con una condanna poi venga nominato presidente dell'INPS e ricopra 24 incarichi, poi scesi a 9. Grazie Guido Gentili, il traffico e poi la borsa. Di nuovo in diretta, chiedo venia ai colleghi del traffico, questa volta non è colpa mia, l'orologio, quello collegato col satellite, era completamente sballato e quindi avevamo dei tempi sballati in diretta, ecco il perché del ritardo, almeno una volta tanto non è colpa mia, una volta tanto. E vorrei dire che i mercati continueremo a farli anche dopo il GR. Intanto ringrazio Livia Zancaner, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera Livia. Buonasera. Allora, meno 2,60% la chiusura oggi, peggiore tra le borse europee a Milano, meno 1,40% Parigi, meno 1,30% Francoforte, meno 0,70% Londra, meno 1,30% invece l'America. Molto male le banche per via di stress test, ma soprattutto deflazione, paesi emergenti, e male in particolare le popolari. Banco Popolare meno 7%, Pop Emilia Romagna meno 6,90%, UBI Banca meno 5%, Pop Milano meno 4,30, Unicredit meno 4 e ancora Intesa al di là della Bad Bank meno 2,90%, Unipolsai meno 2,30. Le banche, se riesce a agganciarmi però anche il lusso o chi lavora sui mercati emergenti, World Duty Free meno 4,60, Ferragamo meno 3,90, Tod's meno 3,20. Sì, allora per quanto riguarda le banche diciamo che oggi è andato male tutto il settore europeo, che ha perso oltre il 2%, risentendo appunto degli stress test e anche dei conti pubblicati da Lloyds, che ha perso a Londra il 3,5%, di Julius Baer che ha perso il 6,6% in Svizzera. A Milano le vendite hanno colpito in particolare il comparto delle banche popolari, alcune delle quali secondo gli analisti potrebbe seguire la decisione del Banco Popolare di effettuare un aumento di capitale prima della pubblicazione degli stress test a novembre di quest'anno. Ricordiamo che oggi la Banca Centrale Europea ha spiegato che le banche sottoposte ai stress test dovranno aumentare il capitale a breve termine. Per quanto riguarda Intesa San Paolo, come dicevi tu, oggi vi è la notizia secondo cui la banca starebbe studiando la creazione di una bad bank. Per quanto riguarda il lusso, sono andati male Tod's, che porta quasi meno 11%, le perdite realizzate dalla diffusione dei conti il 29 gennaio, mentre oggi i realizzi hanno colpito Ferragamo, che aveva guadagnato venerdì quasi il 4% dopo i dati sulle vendite del 2013. Per quanto riguarda gli emergenti, World Duty Free, la società è stata colpita dalle prese di beneficio, ha perso 6,6% dopo un più 18% nel mese di gennaio. Secondo gli analisti proprio i ricavi potrebbero risentire negativamente delle tensioni sui mercati emergenti, che potrebbero comportare un calo del traffico passeggeri. Gli altri titoli, grazie Livia Zancaner, gli altri titoli con te dopo il GR. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Otto e 8 minuti, riprende la seconda parte di Focus Economia, concludiamo l'approfondimento di borsa con Livia Zancaner, poi all'Italia e anche l'intervista con il commissario Tajani sulla multa, sulla procedura di infrazione che l'Europa ha aperto nei confronti dell'Italia per il pagamento, per il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese italiane. Allora Livia, dicevamo delle banche e di tutti i titoli esposti nei confronti dei paesi emergenti. Male oggi la borsa a Milano, meno 2,60%, un punto in più di calo rispetto alla media. I titoli che hanno un po' tenuto, soprattutto Pirelli, meno 0,30%, e anche abbiamo visto Enel Green Power, meno 0,40%. Sì, allora diciamo che Enel Green Power ha tenuto in attesa dei conti che poi sono stati pubblicati a mercati chiusi. La società ha mostrato un EBITDA 2013 sostanzialmente in linea alle attese, intorno a 1,8 miliardi e ricavi in aumento del 12% a 2,8 miliardi di euro. Ha invece perso terreno la controllante Enel, meno 2,9%, che pubblicherà domani i conti relativi allo scorso anno. Per quanto riguarda Pirelli stamattina andava bene, poi ha chiuso a meno 0,33%, ricordiamo che nei giorni scorsi il titolo aveva perso molto dopo la smentita dopo che Marco Tronchetti Provera ha smentito le voci su una possibile offerta sul gruppo della Bicocca. Ancora tiene Atlantia, meno 0,24%, qui c'è anche il legame con l'Italia, no? E le ipotesi di cui adesso parleremo con Etihad. Fuori dal listino principale, Media Contact, adesso io spero di leggere correttamente, ha fatto l'895% di rialzo in un giorno, forse un nuovo record, basta oggi più 16%. E sul fronte opposto invece TXT Solution ha perso il 48%. Facciamo Media Contact e TXT. Sì, in realtà si tratta di due performance che possiamo definire virtuali, nel senso che Media Contact oggi ha raggruppato le azioni nel rapporto di un nuovo titolo ogni 10 posseduti, quindi in realtà quel rimbalzo è un rimbalzo sostanzialmente virtuale. Per quanto riguarda l'altra società che è TXT e Solution, il titolo vediamo che ha perso il 48%, ma oggi è partito l'aumento di capitale gratuito da 5,9 a 11,8 milioni di azioni. In sostanza ogni socio è stata data un'azione gratuitamente, per cui il titolo ha perso il 48%. Grazie Livia Zancanera, Radio Corri, Sole 24 Ore. Bene, oggi anche Amplifon più 5,11%, De'Longhi più 4,20%, Brioschi più 4,17%. E anche Grandi Viaggi più 7,71%, male invece Banco Popolare, l'abbiamo detto, meno 7%, ma Industria e Innovazione meno 9%, e Molecular Medicine meno 16,77%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Parliamo adesso di Alitalia e della procedura, che è un altro tema invece, di infrazione europea. Trovato disponibilità, interesse rispetto al nostro piano di privatizzazioni che oggi ho presentato in tutti i suoi aspetti e interesse rispetto alle tante altre opportunità di investimento in Italia che ho presentato al fondo di investimento sovrano del Qatar e a tutte le autorità che ho incontrato questa mattina. Ringrazio in particolare il Ministro dell'Energia che mi ha accompagnato in tutta la visita e col quale ovviamente abbiamo lungamente discusso di possibili investimenti anche nel campo energetico, investimenti legati a una possibile presenza ulteriore di capitali qatarini dentro imprese italiane energetiche, l'Eni è una di queste. Così il Premier Enrico Letta, dopo appunto l'incontro con il Qatar, appunto le opportunità che si aprono per Eni in Qatar. La notizia più forte riguarda però l'annuncio di ieri, quella che si procede con le trattative con Etihad. Oggi il numero uno di Alitalia, Gabriele Del Torchio, ha detto: questa è la settimana per noi più importante, con lo scambio di informazioni per redigere il nuovo piano industriale di Alitalia all'interno della logica Etihad e per mettere in sicurezza l'azienda e guardare con serenità al futuro. In poche ore si chiuderà con le banche, nel senso adotteremo la compagnia di ulteriori mezzi finanziari e poi le indiscrezioni parlano di circa 200 milioni di euro attesi come linee di credito e poi c'è l'accordo con i sindacati e la trattativa con Etihad. E su questo anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. All'Italia sola, e nel mercato globale, un mercato estremamente competitivo come quello del trasporto aereo, vediamo anche quello che succede in giro nel mondo, ha difficoltà a rimanere. Quindi un'alleanza strategica forte, con un gruppo forte che ha voglia di investire, che non penalizzi il ruolo del nostro paese, secondo me è una cosa positiva. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, è la settimana più importante per l'Italia, ma di' la verità, anche tu sei rimasto sorpreso della trattativa che è andata accelerando con Etihad? L'annuncio improvviso ieri mattina effettivamente ha colto di sorpresa, perché sembrava avessero bisogno ancora di un po' di tempo, probabilmente anche la svolta con il sindacato di sabato ha consentito di fare questo annuncio, che comunque, diciamo, dice abbiamo 30 giorni per definire e risolvere quelli che sono ancora alcuni problemini. C'è scritto tra le righe, si coglie questo, comunque c'è l'intenzione di arrivare a un accordo. Ma tu che sei un po' il Nuri e il Rubini del traffico aereo, cioè scettico da sempre, e non è un'offesa, nel senso, sì. Rubini, ci credi a questa ipotesi o no? Credo che sia possibile, quello che è da vedere, non, almeno io non lo so, mi sembra che non si sappia da tutto quello che finora è trapelato, cioè che se Etihad dovesse arrivare a investire quei 300 milioni o poco più nell'Alitalia, qual è il suo piano, cioè se lo fa per, oltre a ridimensionare, perché Etihad ha posto come condizione anche un ridimensionamento dell'attività, che è quello anche che la compagnia sta facendo, trattando con i sindacati per ridurre di circa 2000 addetti l'occupazione con ammortizzatori sociali. Poi sta riducendo un po' la flotta. Allora la grande domanda è: Etihad entra in Alitalia per sviluppare anche il trasporto intercontinentale a lungo raggio, quello che è il punto debole, il grande punto debole dell'Alitalia e dell'Italia, per cui non ci sono pochi voli diretti dell'Italia per andare in Nord America, in Estremo Oriente, o lo fa soprattutto per darle una dimensione più contenuta, in modo da che riesca a non perdere e usarla semmai come compagnia per muovere in Europa anche il suo traffico e soprattutto per alimentare Abu Dhabi, che è il suo grande scalo. Questo direi è il punto interrogativo. Per il momento non ci sono elementi certi per dire che lo fa per sviluppare l'Italia. Quindi se crede veramente in Alitalia, quindi integrandosi con sinergie, darà la possibilità all'Italia anche in cold sharing, quindi con accordi, poi poco importa se il volo è operato dal vettore Alitalia o dal vettore Etihad, ma basta che ci sia il volo che va in Asia, dove l'Italia non riesce ad andare, che aumenta il traffico anche su altre rotte, l'abbiamo detto molte volte, le lunga distanza, oppure, se dici tu, la userà solo per, come testa di ponte, chi potrebbe dire cavallo di Troia, per entrare nel mercato europeo, tenendolo a livello di compagnia regionale. In una battuta, riesci a dimmi se, alla luce della tua esperienza, vedi come realistica l'accusa di Lufthansa che dice c'è il rischio, chiediamo alla Commissione europea di proibire tattiche di aggiramento, perché questo è un aiuto di Stato? Sono già alcuni anni che le grandi compagnie europee, il primo era stato il capo della British Airways, Willie Walsh, ora capo di British Iberia, a fare una denuncia simile contro le compagnie del Golfo, Emirates, Etihad e anche Qatar. Perché? Perché hanno il petrolio, loro dico che lo pagano a prezzo di mercato, ma sono paesi che producono petrolio, le compagnie sono statali, quindi hanno la possibilità di pagarlo poco e soprattutto hanno non hanno onere, il cuneo fiscale da loro non esiste, non c'è il problema del fisco, sì. Quasi non pagano tasse, quindi siccome sono compagnie statali pubbliche, indirettamente ci potrebbe, cioè non è privo di fondamento questo tipo di contestazione. Non so però se potrà l'Unione Europea dargli una rilevanza. Lo scopriremo subito parlandone con il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani. Onorevole Tajani, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, adesso io poi ho le informazioni sul traffico, però questa risposta la vorrei subito. C'è il rischio che all'Italia, nell'accordo con Etihad, venga accusata di aiuti di Stato? Ma bisognerà vedere quale sarà il contenuto dell'accordo. A una prima lettura mi pare proprio di no. importante è che tutto avvenga nel rispetto delle regole di mercato. Già avevo detto la stessa cosa per quanto riguardava la partecipazione di Poste Italiane all'Italia. Siccome l'acquisto è avvenuto a prezzo di mercato, non c'è nessuna violazione delle norme di concorrenza. A me pare un fatto positivo che ci sia una partecipazione alla compagnia aerea all'Italia, che è un vettore europeo. Noi abbiamo bisogno di incrementare le presenze turistiche in Europa, ecco perché cambieremo anche le regole sulle concessioni di visti. C'è un grande evento che si chiama Expo 2015, ci sono classi medie benestanti, a dire quasi ricche, in Russia, in Cina e in Estremo Oriente. Abbiamo bisogno di più turisti che vengano in Italia e in Europa. Chiaro il suo punto, grazie Gianni Dragoni. Dopo il traffico invece vorrei capire che cosa rischiamo con la procedura di infrazione che avete aperto contro il governo italiano per il ritardo con cui paga, contro lo Stato italiano per il ritardo con cui paga le imprese. Allora, vicepresidente Tajani, avete aperto la procedura di infrazione contro l'Italia, noi paghiamo a 170 giorni in media le imprese, contro una media europea di 60, c'è una direttiva europea recepita che dice che dobbiamo pagare a 30 giorni, ma è vero che rischiamo di pagare una multa di 3-4 miliardi che è pari a un intero anno di IMU? Beh, assolutamente sì, la situazione è questa. La direttiva europea che è stata trasposta in Italia il 1 gennaio del 2013 e ci sono anche alcune cose da correggere ancora, prevede che tutti i debiti debbano essere pagati entro 30 giorni o 60 nel settore della sanità, degli appalti pubblici in caso di aziende pubbliche. E per ogni giorno di ritardo c'è una mora dell'8% più il tasso di interesse, vale a dire 8,25%. Già soltanto se l'ammontare è quello di cui si parla nelle relazioni che l'ANCE e Assobiomedica e Confartigianato hanno portato alla conoscenza dell'opinione pubblica, siamo a una cifra pari all'IMU di un anno, quindi soltanto per il mancato pagamento della mora, quindi siamo a purtroppo a livelli molto alti, quindi serve un'inversione di tendenza. Purtroppo l'amministrazione pubblica italiana, che dovrebbe difendere gli interessi dei cittadini, insomma, invece di fare Robin Hood fa lo sceriffo di Nottingham, quindi abbiamo un rapporto quasi medievale con le imprese, anche perché la procedura che abbiamo avviato oggi, che è destinata poi a far partire la lettera di messa in mora, parla di violazione dell'articolo 4 della direttiva e dell'articolo 7. L'articolo 7 parla delle procedure inique, perché abbiamo ricevuto denunce sia dall'ANCE, dall'organizzazione dei costruttori, sia da Confartigianato, che un'alta percentuale di imprese riceve dall'amministrazione pubblica richieste prestanti per postdatare le fatture e quindi aggirare le normative comunitarie. Ecco, mi dica anche una cosa però da questo punto di vista, lei è d'accordo nella polemica letta a Squint? Perché lei ti ha detto la Confindustria faccia, le imprese facciano qualcosa per far crescere il paese, però a me sembra che sia il governo che deve consentire alle imprese di far crescere il paese. Allora, questa procedura non viene applicata ai vecchi 100 miliardi ma solo ai nuovi pagamenti? Perché ci sono 100 miliardi a tutto? Viene applicata ai nuovi pagamenti perché si riferisce alla direttiva che è entrata in vigore gennaio 2013. Fino al 31 dicembre 2013 era in vigore un'altra direttiva comunitaria che non fissava dei termini precisi. Certo. Comunque noi abbiamo detto, per quanto riguarda i termini pregressi, che il pagamento non rappresenta uno sforamento del patto di stabilità, perché si tratta di un fattore attenuante. C'è una lettera del 18 marzo me la ricordo bene, che porta la firma del vicepresidente Ren e mia, dove si dice in maniera molto chiara che l'Italia può e deve pagare tutti i debiti pregressi, cioè quelli antecedenti alla entrata in vigore dell'attuale direttiva, entro di fatto la metà del 2015. No, ecco, perché per rispondere a Letta io dico, per carità, è giusto che le imprese facciano la loro parte, tutte le imprese, però anche il governo potrebbe fare qualcosa per le imprese, per esempio pagando i debiti che ha con le imprese, e questo sono, ballano circa ancora 80 miliardi, perché erano circa 100, 21 li hanno ridati. Devo dire che il ministro Saccomanni sostiene che la differenza sulla stima del PIL che fanno Fondo Monetario, OCSE, Commissione Europea, Centro Studi Confindustria allo 0,6 e invece quella del governo all'1,1 è dovuta al fatto che il governo considera anche l'effetto dei pagamenti alle imprese. Ma mi dica, lei quando ha visto questa polemica, in cui che sensazione ha avuto? Che ci sia un eccesso di ottimismo da parte di Letta? Che ci sia stato un giudizio troppo severo da parte di Squinzi? Ma io non voglio entrare nella polemica tra il governo e Confindustria, dico soltanto che come membro del governo dell'Unione Europea sto facendo di tutto perché possa essere agevolata l'azione delle imprese. Noi dobbiamo mettere le industrie italiane ed europee nella condizione di poter creare benessere. Questo è lo spirito dell'Industrial Compact che la Commissione Europea ha approvato 2 settimane certo. fa e che propone anche al Consiglio Europeo di marzo affinché ci sia un impegno anche di tutti gli Stati membri. Certo, poi le imprese devono impegnarsi, fare il loro, però credo che tocchi alla politica preparare il terreno perché le imprese e soprattutto le piccole e medie possono operare nel modo migliore, abbattere il fardello burocratico, agevolare l'accesso al credito e dare norme che permettano alle imprese di non avere un fardello fiscale enorme che impedisca loro di volare. Ecco, mi dica solo una cosa, ma secondo lei perché non paga lo Stato italiano? Cioè, visto che voi non lo considerate come deficit, visto che avrebbe un effetto benefico immediato anche sulle imprese, perché avrebbero un po' di cassa, le banche tanto sono molto molto molto restie a concedere credito. Lei si sarà fatto un'idea del perché lo Stato italiano sia ancora così in ritardo? Non riesco a capire, evidentemente in Italia c'è ancora un potere mandarino che preferisce gestire il potere finanziario ed economico senza guardare l'economia reale. Non vedo altre spiegazioni. Adesso io ho parlato dello sceriffo di Nottingham, noi avremo bisogno di uno Stato Robin Hood, non di uno Stato sceriffo di Nottingham. Una concezione medievale del rapporto tra Stato, enti locali e imprese è assolutamente inaccettabile nell'Europa del 2014, un'Europa che deve uscire dalla crisi e che non può non cogliere i timidi segnali di ripresa che ci sono. In Italia già sono più timidi che altrove, un sistema come quello che abbiamo è assolutamente inaccettabile. Beh, mi sembra che stiamo chiudendo dove siamo partiti, perché abbiamo raccontato all'inizio del programma di questa cosa pazzesca per cui un fondo, per carità, di soli 20 milioni di euro, però si chiama Fondo del Merito del Ministero della Pubblica Istruzione, bloccato perché se lo sono rimpallati l'iter attuativo da un ministero all'altro senza che nessuno abbia mai firmato le carte, e quindi i 20 milioni di euro non sono mai arrivati. Alla faccia del Fondo del Merito, siamo... è il fondo del merito, nel senso che siamo al fondo del merito, come dicevamo all'inizio. E io dico, visto che Letta chiede alle imprese di fare qualcosa, per carità, giusto, noi chiediamo al governo di fare qualcosa e pagate queste imprese e sbloccate questi soldi, non ve li considero neanche nel deficit, e fate fuori i funzionari della pubblica amministrazione che usano il loro potere di veto solo per mantenere la cadrega, no? Così andiamo avanti, se no ci becchiamo anche 4 miliardi di multa dalla Commissione Europea per ritardi attuali, non quelli pregressi dei pagamenti. Grazie al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Da Sebastiano Berrigioni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per raccontare questo strano, stranissimo paese in cui tutti sono bravi a dire quello che dovrebbero fare gli altri. A domani. Radio 24, la passione si sente.